Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il traghettatore, buongiorno. Partiamo con il ricordarvi che da ieri e fino a giovedì siamo in piena settimana europea della mobilità sostenibile in città senza la mia auto. Questa è l'iniziativa promossa dalla Commissione europea che ha l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto, mezzi alimentati con combustibili sostenibili, ma anche modalità di trasporto non motorizzato, anche a piedi, tanto per intenderci. A proposito di responsabilità sociale d'impresa e a proposito di mezzi di trasporto, Leroy Merlin ha lanciato un nuovo servizio ferroviario intermodale. Si chiama così, ma in realtà vuol dire semplicemente che elimineranno dalle nostre strade più di 3.000 camion per il trasporto delle merci e della grande catena distributiva, perché andrà tutto sulle rotaie. Non è poco. Solo l'ultimo miglio, quindi dall'arrivo al nodo delle merci al negozio, sarà utilizzato con mezzi su strada. È sicuramente un atteggiamento che, se seguito dalla grande distribuzione, potrebbe creare sicuramente qualche problema ai camionisti, va da sé, ma certamente anche migliorare le condizioni del traffico e dell'impatto ambientale. A proposito di impatto ambientale, abbiamo con noi Massimo Milita, direttore marketing di Sorgenia. Buongiorno, direttore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E perché Sorgenia, che è una importante azienda italiana di erogazione di energia, di produzione di energia, ha un progetto educativo che in questi giorni di apertura, in questa settimana di apertura delle scuole, è rivolto proprio agli alunni. Si chiama Generazioni Sensibili questo progetto, è corretto, direttore? Come funziona e qual è l'obiettivo? Sì, allora il progetto si chiama Generazioni Sensibili alla ricerca dell'efficienza. Allora, è un progetto che nasce proprio quest'anno, per la prima volta ci cimentiamo in un percorso di formazione e ci dedichiamo agli adulti, quelli adulti di domani, ossia sono fornire agli adulti di domani quegli strumenti che culturali e formativi per la gestione più attenta delle risorse. Cioè, i ragazzini, stiamo parlando di scuole elementari e medie? Stiamo parlando delle classi terza, quarta e quinta elementari, quindi che vanno a casa e parlano con i genitori portando un messaggio, diciamo, questo è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo appunto è che questi ragazzini poi diventino gli insegnanti dei propri genitori, ossia vogliamo far sì che loro possano introdurre in casa quegli elementi di concretezza nell'uso più efficiente della risorsa energetica. Quindi non vogliamo raccontare come si genera l'energia, perché ormai di questi progetti sulla generazione di energia ce ne sono tanti, ma proprio vogliamo raccontare come l'energia andrebbe usata in casa e come andrebbe usata senza sprechi. Questo lo fate attraverso materiale didattico e quindi attraverso l'aiuto degli insegnanti? Esattamente, noi abbiamo questo progetto che si chiama appunto Generazioni Sensibili, che è in fase di formalizzazione del supporto del MIUR, e forniremo alle classi che parteciperanno a questo progetto e quindi agli insegnanti un kit che prevederà oltre insomma un grande cartellone che sarà ben visibile in aula, anche degli elementi che i ragazzini normalmente usano, ossia gli sticker e dei piccoli blocchetti, block notes, che utilizzeranno proprio in casa, evidenziando quali sono le abitudini giuste e le abitudini meno giuste, attaccando proprio gli sticker in quelle posizioni dove c'è il consumo di energia e quindi evidenziando se quel consumo di energia è un consumo, diciamo, fatto in maniera attenta o un consumo fatto in maniera non attenta. Oppure no. Ecco, questa iniziativa ha anche un risvolto, diciamo così, concreto di sostegno nelle scuole, ce la vuole accennare brevemente? Sì, un'iniziativa che, come dire, è suddivisa in due fasi, questa fase educativa, come abbiamo detto, e una fase successiva che si rivolge proprio alla famiglia del bambino e del ragazzino, dove cerchiamo di aggiungere concretezza al supporto che Sorgenia vuole dare sia alla parte educativa sia a quello che sono poi le esigenze che le scuole, che i bambini che vivono la scuola tutti i giorni necessitano. E quindi avremo pensato ad un progetto che appunto nascerà insieme a questo percorso educativo successivamente, dove forniremo alle classi aderenti a questo progetto una serie di materiali educativi che sono beni e servizi in funzione appunto di alcune azioni che le famiglie dovrebbero fare in corrispondenza di questo progetto educativo. Bene, grazie. Purtroppo la scuola ha proprio bisogno di questo sostegno e fortunatamente c'è chi lo dà in questa maniera. Grazie a Massimo Milita di Sorgenia. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a chi ci ascolta. Ricordo ferribotto@radio24.it per le vostre comunicazioni. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Paolo Corleoni in regia. A presto.